Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio ad agosto del 1823. Parte la spedizione contro la Spagna ed è vittoriosa a Cadice Carlo Alberto alla guida delle truppe sabaude. È morto Pio VII, cardinali in conclave Somaglia e Consalvi ippapabili. Napoli condanna a morte per Guglielmo Pepe, ma il generale è all'estero. Scomparso il medico inglese Edward Jenner, a lui si deve l'invenzione del vaccino. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Era l'uomo che aveva concesso la Costituzione ai piemontesi. Ora Carlo Alberto di Savoia si imbarca per la spedizione repressiva proprio contro i costituzionalisti spagnoli. Spedizione che ha avuto successo. Ci colleghiamo con l'inviato a Cadice, Paolo Piacenza. Paolo. Sì, buongiorno Simone, qui a Cadice, mentre ancora tuonano i cannoni è arrivata la notizia che il duca di Angulema ha vinto la sua battaglia contro i liberali spagnoli. L'assedio portato da 67 navi da battaglia francesi e dall'esercito dei 100.000 figli di San Luigi ha avuto ragione della resistenza dell'ultimo baluardo dei costituzionali. Lo scontro decisivo è stato probabilmente il 31 agosto, quando i francesi, tra cui anche l'erede al trono di Savoia, il principe Carlo Alberto, hanno lanciato un attacco a sorpresa contro il forte del Trocadero, nodo nevralgico delle difese di Cadice. Il forte è stato subito catturato. Dopo 3 settimane di intensi bombardamenti, la città si è arresa. A breve le truppe francesi entreranno con l'obiettivo primario di liberare il re Ferdinando VII. Come sappiamo, su proposta della Francia, nel congresso di Verona la Santa Alleanza aveva dato il via libera, pur con l'opposizione inglese. Il 7 aprile un forte esercito francese, 95.000 uomini appunto, ha passato i Pirenei, ha sconfitto le forze spagnole in Catalogna. Il duca di Angulema ha proseguito senza grossi ostacoli fino a Madrid, sgomberata dei liberali che hanno portato con sé il re Ferdinando come prigioniero. Ora la Spagna è di nuovo nelle mani di Ferdinando. Il sovrano è stato impegnato dai liberatori francesi a perdonare i suoi carcerieri e a mantenere la Costituzione. Tra qualche giorno sapremo se l'impegno sarà onorato. E da Cadice è tutto. Grazie dunque a Paolo Piacenza. Ci spostiamo nello Stato Pontificio, dove il 20 agosto è morto Papa Pio VII e a quanto sembra nel conclave che si è riunito si stanno scontrando due anime, quella dei riformatori e quella dei cosiddetti zelanti. Dopo che l'imperatore d'Austria ha posto il veto sul nome del cardinal Severoli, i voti dei cardinali starebbero convergendo sui nomi di Giulio Maria della Somaglia, conservatore, sul dimissionario segretario di Stato Ercole Consalvi. Restiamo nei regni italiani per tornare a Napoli e ancora una volta alle cronache della repressione. Il 24 gennaio scorso sono stati condannati a morte in contumacia i generali Guglielmo Pepe e Michele Carascosa. Nel frattempo il governo toscano ha ordinato l'espulsione di tutti gli esuli napoletani. Questi ultimi, così come quelli milanesi e piemontesi, si stanno rifugiando in varie parti d'Europa. A Londra sono stati segnalati Santorre di Santa Rosa, protagonista delle rivolte piemontesi, il lombardo Giovanni Berchet e Ugo Foscolo. Altri ancora starebbero prendendo la via della Grecia per supportare la ribellione indipendentista. La scienza perde un grande uomo. È scomparso Edward Jenner, medico e naturalista britannico che ha scoperto e sperimentato il primo vaccino contro il vaiolo. Gli ultimi anni dell'uomo che tanto ha cambiato la vita d'Europa sono stati tristissimi, nonostante gli onori che il Regno Unito gli ha riservato. Ha perso tutti i suoi familiari, compresa la moglie. In gennaio è stato poi colpito da un ictus e, appunto, è morto. È tutto, andate sul sito di Radio 24 e scaricate il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento anche prendendo penne e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.